si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Alle 8:33 minuti, una buona giornata a tutti voi, una buona giornata Carlo, bentornato anche a te. Grazie, buona giornata anche a te Laura e a tutti i nostri ascoltatori, buon sabato. Buon sabato e buon quiz, possiamo dirlo, no? Perché certo. Oggi è la giornata del quiz, noi vi proponiamo una domanda, voi dovete scegliere qual è la risposta giusta delle tre che vi leggeremo e vi potrete portare a casa due biglietti per il... MUDEC di Milano, dove c'è la mostra di Erwitt, la mostra fotografica, giusto? Precisamente, bravo, complimenti. Fino al 29 di marzo questa mostra e questi biglietti per voi a disposizione. Bisogna chiamare e prenotarsi però all'800 24 00 24. Per sms e whatsapp, come sempre, c'è il 349 238 6666 che è il numero per tutti i messaggini a Radio 24 che arrivano copiosi già adesso, perché la gente è sveglia, Carlo. Esatto, e soprattutto non valgono per il quiz, ma valgono per qualunque altra cosa voi vogliate comunicarci. Oh, questa settimana, tra l'altro, noi parliamo di tantissime cose diverse, perché cominciamo un po' con le fake news, anche quelle che circondano il coronavirus. Assolutamente sì. E cerchiamo di sbufalare qualcosa o comunque di instillare un po' di prudenza, un po' di cautela, insomma, in tutti voi nel leggere e recepire le notizie. Parleremo però anche, tra l'altro, di una pubblicità che abbiamo appena sentito, no? Dei terreni. Vero. Per i giovani e per le donne. E lo facciamo con la ministra. Precisamente, giusto? La ministra Teresa Bellanova, con la quale parleremo di questa asta e di tutto quello che appunto le compete. Perché poi abbiamo anche deciso di intraprendere con lei un po' la questione del caporalato, a cui lei ovviamente tiene molto. Ci sono delle nuove disposizioni. E quindi anche di questo parleremo alle 9:15 con la ministra Bellanova. Vero. Buone notizie questa settimana, un po' difficile trovarle. Guarda, molto difficile, sì, infatti sì. Fino a giovedì pensavo a tutt'altre notizie, ma poi ieri è accaduto quello che è accaduto. L'ho visto anche qui in redazione quando ci siamo visti ieri. Non si può non considerare l'emergenza virus. È bene parlarne, rimanere spaventati non serve a niente. Ci sono i primi contagiati in Italia di coronavirus e anche il primo decesso stanotte, un uomo di 78 anni. E onestamente sembra impossibile trovare una buona notizia dentro questa emergenza mondiale. Ma invece io credo che ci sia. La buona notizia è che per fortuna ci sono quelli che non fanno allarmismo e contribuiscono a ragionare. E sono tanti. Come ben sappiamo, il virus non è razzista, quindi non sceglie né predilige razza, colore della pelle o forma degli occhi. Al momento abbiamo più contagiati nella sola Lombardia che in tutta l'Africa. Quindi il virus certo non arriva dai barconi, dagli sporchi immigrati o dai disperati, semmai siamo noi a rischiare di contagiare loro. Quindi, se mi passate una battuta, occhio, perché fra un po' inizieranno a farci affogare in mare pur di non accoglierci in Libia, visto che siamo noi al momento quelli che ce l'abbiamo. Non ha nemmeno nessun senso essere spaventati dai cinesi, temere i ristoranti asiatici, voler tenere lontani coloro che hanno gli occhi a mandorla, perché il coronavirus in Italia pare l'abbia portato un manager piacentino che poi è andato a cena con un amico di Codogno. Quindi direi che possiamo definitivamente sancire che è una battaglia dell'umanità tutta contro la malattia. Siamo tutti e 7 miliardi dalla stessa parte, almeno per una volta. Ecco perché, come minimo, chi ha buon senso e buone intenzioni non può che invocare l'unità nazionale. Non è una questione di destra o di sinistra, né di governo o di opposizione, è di tutti. Stiamo parlando della salute fisica di ognuno di noi, non scherziamo. Chi in queste ore sta cavalcando schifosamente l'emergenza per urlare hashtag Conte dimettiti o boiate sulle frontiere da sigillare, adesso che il virus è dentro, beh, grandissima idea, complimenti, ci sigilliamo dentro con il virus. Beh, ecco, questi dovrebbero veramente vergognarsi della propria incoscienza, perché non è davvero il momento. Bravi invece tutti quelli, e parlo anche di noi singoli, al bar o all'uscita da scuola o al telefono con la mamma, o ieri Laura, mentre parlavo con lei al telefono, che mi tranquillizzava, che cercano di tenere i nervi saldi. Facciamo che questa emergenza sia occasione di unirci per il bene comune. Dipende da noi, si può fare. Si può fare, si può anche appunto studiare, cogliere l'occasione per stare vicini, aiutarsi, comprendere, approfondire, studiare un po' come funzionano queste cose e cos'è giusto fare e non fare, e ragionare appunto anche sui canali di trasmissione, come giustamente dicevi tu. Io concordo perfettamente, ti porto su un altro argomento, guarda, l'ho letto poco fa adesso perché vorrei anche questo, magari se c'è qualche ascoltatore che ne vuole parlare. Si trova su tanti quotidiani oggi una intervista, diciamo che dichiarazioni, ecco, di Giorgio Armani, no? Stranoto, famosissimo stilista. Sulle donne, io vi leggo un po' come l'hanno messo su Libero, per esempio. Armani: troppi stilisti violentano le donne, così ha deciso di titolare Libero. Re Giorgio dice: sono stufo di sentir parlare di tendenze, non sono niente. Gli stilisti non rispettano le donne, non le rispettano quando mostrano spot pubblicitari con le modelle seminude. Sembra quasi un invito a imitarle per quel mondo femminile, privo di personalità, pronto a indossare qualunque cosa pur di seguire la moda, senza rendersi conto di sfiorare il grottesco. Ognuno può fare ciò che vuole, ma evitiamo il ridicolo, dice Re Giorgio. Si può stuprare una donna in vari modi, o buttandola in un sottoscala o suggerendole di vestirsi in una certa maniera, affonda, precisando poi che si tratta di una battuta. Ma tanto battuta non è, perché poi alla fine il concetto viene poi riportato su tanti giornali. Io credo che tiri fuori un tema vero. Sul modello che tu proponi e come la gente dall'altra parte lo recepisce, perché è vero che sei libero di accettare o non accettare, ma se la proposta viene da Armani, magari un po' di condizionamento ce l'hai. Infatti, esattamente, se lui ti fa un'altra proposta puoi ottenere un altro risultato. Sono molto d'accordo, e soprattutto è bello che sia lo stesso Armani poi a dirlo, giustamente, no? Perché se tu dici se la proposta la fa Armani, è allo stesso modo, se è lui stesso che si fa delle domande su questa questione, ben venga. Esattamente. Sai che abbiamo già il primo ascoltatore per il quiz? Ma questa è un'ottima notizia. Benissimo, partiamo subito col botto con Lorenzo che chiama da Milano. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno. Come va? Come è iniziato questo sabato? Bene, sono appena andato a ritirare degli esami, quindi ah, ecco, diciamo a proposito di medici e medicine. Ottimo. Sì, infatti. Tutto bene? Non li ho ancora aperti. Ah vabbè, allora vediamo di vincere il biglietto, dai. Nel momento in cui stavo per aprirli, aspetto dopo. Vabbè. Giusto. Allora iniziamo col quiz, vediamo di portarsi a casa due biglietti, così poi dopo apriamo la busta del medico. Allora, le leggo subito il testo, poi dopo iniziamo con le risposte. In questi giorni, percorrendo le strade che attraversano l'Appennino bolognese, è possibile incontrare dei volontari molto particolari. In che cosa sono impegnati? La risposta numero uno ce la... Vuoi che la legga io, vai Carlo? Vai tu, scusami. Bloccano il traffico e aiutano i rospi ad attraversare la strada. La risposta numero due invece è: raccolgono i rifiuti gettati dagli automobilisti maleducati. E la risposta numero tre, in terribile e imperdonabile ritardo, cantano canzoni folcloristiche in abiti popolari per invogliare i turisti a fermarsi. Facciamo un riassunto, perché forse per colpa mia. Allora, la risposta numero uno è: bloccano il traffico e aiutano i rospi. La due: raccolgono i rifiuti degli automobilisti maleducati. La tre: cantano canzoni folcloristiche in abiti popolari. Io andrei con la due. Raccolgono i rifiuti gettati dagli automobilisti maleducati. Sì. Il nostro inflessibile ed implacabile notaio ci dice che non è così, perché in realtà sono bloccano il traffico e aiutano i rospi ad attraversare la strada. È proprio questo che fanno questi volontari. È un accompagnamento invece che le vecchiette che devono attraversare. Adesso accompagniamo anche i rospi. Esatto. Adesso si chiameranno delle anziane signore che diranno che le hai paragonate ai rospi. Guarda, mi hanno già detto che siccome sono vecchia la minigonna non la metto, ed è per quello che ho l'invidia, eccetera eccetera. Quindi vabbè, oggi mi dicono di tutto. Anche a me mi dicono di tutto sulla questione del virus. Grazie soprattutto. Lorenzo, però intanto salutiamo. Certo, dai. Grazie Lorenzo. Grazie Lorenzo, buona giornata, in bocca al lupo per gli esami. Voi, grazie. Ma, a proposito, visto che dopo, subito dopo, parleremo di fake news, direi che già dei messaggi è interessante, perché dicono chiaramente, persone che dicono: non è vero, il virus l'ha portato un cinese, è andato a cena con un cinese. No, purtroppo, o per fortuna, non lo sappiamo, insomma. Comunque sia, il virus arriva, non guarda la provenienza asiatica. Non guarda, cioè, i documenti. Esattamente. La contaminazione pare sia passata attraverso un italiano che inconsapevolmente, ovviamente, era di ritorno da Shanghai, è venuto in Italia a trovare i genitori, poi sarebbe tornato a Shanghai, ma non c'è tornato. Che poi è tutto in realtà ancora da verificare, perché in realtà è uscito più giorni, nel senso che lui è stato prima di gennaio, alla fine di gennaio, quindi in teoria si diceva che erano 10 giorni di incubazione, siccome siamo a 20, qualcuno dice magari l'ha contratto in un altro modo. Esattamente, non c'è niente di preciso. Questa persona comunque, che appunto potrebbe essere colui che ha portato, che ha contagiato, pur non avendo lui sintomi se non in forma lieve dell'influenza, è partito prima che venisse imposto il blocco ai voli dalla Cina, perché questo è un altro tema, perché non sigilliamo. Beh, l'Italia ha fermato i voli da un pezzo. Il primo, è stato il primo paese. Sì, e continua a avere bloccato questi voli diretti. La persona in questione però è partita prima, se il blocco era il 22 gennaio, lui è partito il 21, mi pare, una cosa del genere. Quindi si fa il possibile, insomma, si cerca adesso di blindare, e quindi tutti sono chiamati poi ad essere un po' così prudenti, a comportarsi in maniera prudente e civile, ovviamente, con i vicini, i parenti, gli amici, eccetera, eccetera, eccetera. Ma insomma, la questione di Armani direi che solleva un sacco di problemi, o chi è d'accordo, chi non è d'accordo, a parte la questione della minigonna, che mi riguarda precisamente e perfettamente. Ma io, come dice Armani, insomma, se la gamba è brutta non si espone, io la minigonna non l'ho mai portata, neanche a 20 anni. Direi che non possiamo che aggiungere traffico. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Liberi oltre le illusioni è un movimento culturale che vuole favorire lo sviluppo e l'utilizzo del metodo scientifico e nello studio e nella valutazione delle tematiche sociali, ma non solo, anche questioni economiche, anche questioni di salute. Via via il loro lavoro partito così in maniera più ristretta su internet per parlare, insomma, tra esperti, si è ampliato al punto che ormai il loro canale YouTube ha circa 40.000 utenti unici medi al mese, 21.000 iscritti e via via 1.330.000 di visualizzazioni. Insomma, Thomas Manfredi è uno statistico economico ed econometrico nel direttorato di politiche del lavoro dell'OCSE ed è uno dei membri fondatori, appunto, di Liberi Oltre le Illusioni, ed è nostro ospite. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Insomma, davvero, siete partiti con uno spirito, non pensavate forse di arrivare a questi numeri? Sì, no, esatto, no, c'è un po' stupito questo tipo di domanda, di informazione. Secondo me sì, esatto, ringrazio innanzitutto per la presentazione, i numeri sono corretti, quindi noi solitamente ci basiamo molto su un'analisi empirica dei fatti, quindi ricordate, i numeri sono quelli, noi siamo molto onorati di avere questi numeri, effettivamente non ce l'aspettavamo. Ma come è iniziato tutto? Come è iniziato il tutto? Allora, raccontare come è iniziato il tutto probabilmente potrebbe aiutare, esatto, anche un po' a inquadrare il problema delle fake news. Tra l'altro, l'ultimo incontro l'avete fatto anche sul coronavirus, tra gli altri temi toccati, perché cose, poi esatto, le fake news toccano tutti gli ambiti ormai. Esattamente, niente è libero. Siamo partiti da fake news essenzialmente in campo economico, perché quello che era successo è che un sito, quello della Gabanelli, per essere chiari, aveva rilanciato un supposto studio che praticamente, secondo il quale la problematica del debito sovrano europeo era facilmente risolvibile, praticamente basava le sue affermazioni su uno studio che non era stato pubblicato, che era in formato working paper, non aveva neanche gli autori che erano stati citati, quindi era un caso di fake news oggettivo, chiamiamolo così, nel senso che mancava veramente l'oggetto del contender, che era lo studio stesso. Quindi, un dettaglio, insomma. Un dettaglio. No, abbiamo trovato un appoggio a molti universitari legati appunto al campo economico. Stia attento al telefono, perché ogni tanto scappa, non so se è in movimento. Ma... No, mi scusi. Quello per dire, essenzialmente abbiamo trovato supporto da questi professori, abbiamo scritto una lettera aperta al Corriere, e quello ci aveva dato un po' il boost iniziale per la nostra iniziativa, nel senso raccogliere un po' l'expertise delle persone che si pensa ne sappiano di più su alcuni temi, e cercare appunto di dare un'informazione corretta, anche perché la fake news di per sé è difficilmente definibile. Io sono statistico, quindi mi interesso anche per lavoro al processo di falsificazione o verificazione dei fatti, che è una cosa abbastanza complicata, effettivamente, una cosa complicata, perché la definizione di fake news stessa è difficile, amplia, può raggiungere tematiche che non sono di semplice lettura, perché non esiste un test. Stiamo parlando di coronavirus molto in questo giorno, perché sappiamo bene, le notizie sono impelletti. Che cosa si fa col coronavirus? Esiste un test, essenzialmente, che con un certo grado di sicurezza statistica può verificare se una persona è affetta dal virus o no. Noi volevamo fornire lo stesso strumento, che poi è uno strumento empirico statistico, per cercare di fare un test a tutte le notizie economiche, essenzialmente all'inizio, che girano sul web, vengono rilanciati dai giornali e così via. Ma come funziona questo test? Perché in realtà, al di là che è ovviamente un'iniziativa lodevole, nel senso che soprattutto su questioni anche così spinose come notizie economiche, che poi possono modificare quindi investimenti, quello che io però mi chiedo è come si fa, cioè come fate a spiegare alle persone che voi non siete una fake news? Perché da un certo punto di vista qualcun altro potrebbe dire ma loro dicono quello, ma noi diciamo dell'altro. Perché sono pagati dalle multinazionali. Esatto, oppure tutte queste cose. Perché in realtà assolutamente, è l'autorità che è importante in questo caso, cioè è l'autorevolezza, anzi chiedo scusa, più che l'autorità. Assolutamente, l'autorevolezza, esattamente. Allora, e come fate voi? Credo che questo sia centrale. Come facciamo? Essenzialmente I nostri collaboratori sono tutti massimi esperti del loro campo, professori universitari di rinomata fama, e questo è il punto centrale, nel senso che noi pensiamo che le pur lodevoli iniziative che ci sono sui molti giornali, radio, sono assolutamente lodevoli di tutto questo tipo di iniziative, siano certamente lodevoli, ma non arrivano al punto della questione, che è ridare autorità all'approccio scientifico dei problemi. Quindi questa qui è, secondo noi, il nocciolo centrale della questione, è cercare di trovare autorevolezza nelle cose che si dicono e cercare di dare un test che sia il più affidabile possibile. Non esisterà mai un test perfetto, cioè non potremo mai dire che una notizia controllata da noi è certamente falsa o certamente vera, però possiamo dirlo con un grado di affidabilità superiore, che ci deriva dalle nostre professionalità, essenzialmente. Quindi questo noi crediamo che sia il punto centrale della questione, che ridare autorevolezza, come diceva lei, al metodo scientifico. Sì, questo significa, proviamo a richiamarla Thomas Manfredi, perché la sentiamo un po' troppo a strappi, un attimo solo. Partendo da questo discorso, Carlo, io credo che questo significhi anche convincere, no, le persone della necessità di avere dei punti di riferimento più saldi, che non siano appunto brandelli di informazione trovati qua e là su un giornale, su internet, ma che le persone comincino di nuovo a porsi il problema, facciamo riferimento a due o tre entità. Qual è la fonte? Chi la è fonte, che parla? Cioè che uno si domandi sempre, ma da dove arriva questa notizia? Tanti non sono più abituati a farlo, tanti non si domandano più da dove arriva la notizia, la pigliano, la digeriscono e la fanno propria e poi la ripetono ossessivamente, magari con i cambi che noi, come sappiamo, il passaparola fa, no? Manfredi è di nuovo in linea con noi. Infatti un tempo si diceva l'ha detto la televisione, adesso si dice l'ho letto su internet, solo che è molto diverso, perché in teoria la televisione comunque aveva dei canali, quindi degli editori che si prendevano la responsabilità, dei direttori che dicevano questo si può dire, questo non si può dire, questo va detto così in un altro modo, invece su internet ci siamo tutti e ognuno può scrivere quello che il vuole. Direttore. No, certo, secondo me allora è una cosa interessante, perché se ci pensate bene, quando le notizie diventano virali su internet si utilizza appunto la parola virale, perché? Perché praticamente la funzione statistica di probabilità di essere infettato da un virus su internet, che in questo caso è la fake news, segue delle leggi statistiche simili a quelle che sono le infezioni virali, purtroppo. E quindi questa è una delle problematiche che si è aperto con il nuovo, con l'utilizzo dei social media e con l'utilizzo delle nuove tecnologie. Però voglio anche ricordare alcuni dati che mi sembrano interessanti, perché tutte le inchieste fatte presso le famiglie italiane, non solo, dimostrano che comunque il grado di affidabilità che le persone attaccano alle notizie che trovano sul web è inferiore ad altre fonti, è ancora superiore, quindi questo non va dimenticato, nel senso che le fake news su internet hanno un potenziale di contagio molto elevato, però il grado di mortalità brutalmente è molto basso, perché le persone hanno comunque un attacco ad altre fonti che serve anche per verificare questo tipo di notizie. Quindi secondo me la tematica è un po' più complessa di come viene presentata e ci sono dei rimedi, che uno tra i quali è la nostra iniziativa, secondo noi. Iniziativa alla quale ultimamente, in particolare quelle, diciamo, come dire, frontali, ecco, non su internet, si sono iscritte decine e decine di persone. Questo io trovo uno straordinario segnale, insomma, che decine e decine di persone vogliano vedervi in un convegno, sentire un convegno organizzato da voi. Sì, questa è una parte importante anche a vedere. Siamo su Radio 24, quindi credo che il nostro pubblico sia anche interessato alla questione economica, di come è organizzata la nostra struttura, perché effettivamente... Lo deve dire in un minuto al massimo. Sì, in un minuto al massimo, è molto semplice, nel senso, il nostro business model funziona così. Il nostro canale è gratuito, tutte le nostre iniziative sul web sono gratuite, però per tenere in piedi una minima struttura che ci permetta di andare avanti, ci servono essenzialmente delle entrate che coprino almeno le spese, quindi... Quindi si fanno i convegni frontali. Allora, posso rimandare al vostro sito, perché la base che si rialza vuol dire che dobbiamo chiudere. Ricordo, liberi oltre le illusioni, su internet c'è tutto. Grazie a Thomas Manfredi, c'è GR24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Tanti che chiamano per il coronavirus, che vogliono parlare di coronavirus o vogliono chiedere informazioni sul coronavirus, beh, io direi, Carlo, che abbiamo una buona notizia. C'è uno speciale oggi pronto per le 12, dalle 12 alle 13, uno speciale di Obiettivo Salute Weekend con Nicoletta Carbone, un'ora di diretta, ci sarà anche il vice ministro Sileri, quindi lì potrete risolvere tutte le questioni che riguardano specificamente, no, l'apprensione, come la prevenzione, cosa bisogna fare, eccetera, sì, eccetera. La mascherina, perché, no, la mascherina. A essere onesti, io e te non è che siamo degli esperti, non vogliamo metterci nel calderone altro. Di quelli che danno dei consigli a caso. Quindi non mi permetterei mai. I consigli li facciamo dare agli esperti dalle 12 alle 13, Obiettivo Salute Weekend. Invece io volevo chiedere scusa perché ho detto new invece di news e ho imparato che una cosa nuova, information è singolare, news è plurale. Cioè, sapevo che in italiano si usasse, ma pensavo che in inglese si potesse dire quando uno dice una notizia. Invece leggo che news rimane sempre così, anche se lo metti con il verbo al singolare, quindi chiedo scusa. E andiamo al nostro prossimo ospite, anzi la nostra prossima ospite, che è Paola Mar, assessore al turismo del Comune di Venezia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, in questo clima, un po' di coronavirus, un po' di difficoltà che erano già pregresse per Venezia, comunque il carnevale c'è, no? Ma sicuramente il carnevale c'è. Perché oggi è sabato grasso, quindi insomma a noi interessava sapere che lì si festeggia. Sì, noi festeggiamo diffusamente, nel senso che lo facciamo sia in Piazza San Marco e a Venezia, sia in terraferma con una grande sfilata di carri che vede normalmente l'affluenza di 20.000 persone a Marghera. Com'è andata questi giorni che vi hanno portato fino al sabato grasso? Diciamo, si sta un po' recuperando quello che si è perduto per forza con i giorni dell'alluvione e tutto quello che poi è seguito? Ma guardi, la situazione non è sicuramente facile, ci sono degli indicatori abbastanza buoni, ieri sera avevamo una media di occupazione negli hotel del 75% e stasera siamo sul 90%, è chiaro che si sono abbassati i prezzi ed è chiaro che non vediamo un marzo così allegro, però perché poi tra l'altro si innesca quest'altra preoccupazione mondiale del virus, immagino. Del virus, sì, sicuramente, cioè, diciamo che non è una situazione facile, ma noi come ci siamo rialzati dall'acqua alta adesso vedremo di attuare tutte quelle misure necessarie. Il governatore si è già mosso, l'avete visto in queste ultime ore, per tutelare chi c'è in città. Comunque, insomma, confidiamo che anche questa passi. Certo, e voi sullo specifico, riprendendo appunto le linee della regione, che cosa consigliate, che cosa suggerite a chi viene a Venezia in questi giorni? Ma guardi, c'è poco da suggerire, nel senso che abbiamo visto anche a Codogno che la questione si è cominciata a spargere attraverso un paziente zero che non manifestava i sintomi. Noi crediamo fermamente che chi gestisce questa emergenza sia in grado di farlo, quindi al momento non ci sono misure particolari. Ok, benissimo, quindi oggi chi vuole può venire a Venezia. Io ho visto e partecipare a tutte le grandi programmazioni che sono così centrate sul tema dell'amore, il gioco, l'amore e la follia. Precisamente, il gioco, l'amore e la follia, che vi auguriamo non finisca mai. Tra l'altro oggi c'è una Korea Walking Festival, abbiamo letto. Lei sa mica spiegarci che cosa avete in programma con il Korea Walking Festival? Ma guardi, le dico, noi abbiamo veramente in programma di tutto. Non è una manifestazione solo legata a Venezia, noi lavoriamo intensamente, le ho detto, anche in tutte le città di Venezia. Ieri abbiamo avuto un grandissimo... una grandissima manifestazione al Lido, a Pellestrina, oggi ci sarà tanto per i bambini a Mestre, ieri sera c'è stato Strictly sempre per i giovani, cioè cerchiamo di formulare il carnevale in maniera anche culturale, per alcuni versi ci sono una cinquantina di eventi legati alla cultura, d'altronde senza cultura non nasce il concetto della festa di carnevale. Giusto, ma senta, qual è la maschera? È una domanda stupida ma doverosa. Qual è la maschera più bella che ha già incontrato a Venezia? Guardi, devo dire la verità, ero sul palco giovedì grasso, sì. E bisogna ragionare su due piani. Allora, abbiamo delle persone che sono vestite a livello di 700 di una bellezza unica, ma chiaramente questi costumi sono costosi, e c'è stato un gruppo invece che veniva qua dall'entroterra che con poco ha fatto dei bellissimi costumi rappresentando le quattro stagioni. Il carnevale è per tutti, è per tutte le tasche, basta avere anche molta, molta inventiva. C'era anche una mongolfiera. Molto giusto. Io ho visto, probabilmente è girata molto sui social, una foto di un'intera famiglia che si è vestita con tutti i travestimenti di Achille Lauro, e l'ho trovato molto divertente. Che erano mamma, papà e due figli, e ognuno una serata diversa di Sanremo, e mi ha fatto sorridere. A chi è toccata la tutina? Chi lo sa? Al padre. Molto bene. Allora, buona giornata, buon lavoro, assessore Paola Mar, assessore al turismo delle Comune di Venezia. E allora buoni festeggiamenti e a presto. Grazie mille, buona giornata. Grazie, a voi. Arrivederci. Si può fare. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so fucking real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you so, please don't stop it. Ed è giunto il momento di parlare di giovani e donne in agricoltura. Io ricordo comunque a tutti che è sempre valido il nostro numero verde 824 0024 per partecipare al quiz, il 349 238 6666 per partecipare con i vostri messaggi che sono comunque copiosi e numerosi oggi. Vero. Quindi il numero lo sapete bene, ma insomma c'è qualche magari nuovo ascoltatore che si è sintonizzato chissà mai per sentire il nostro prossimo collegamento con la ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Un piacere sentirla, ministra. Vogliamo parlare di questa bellissima asta che è stata appunto proposta nel corso della settimana. Asta di 10.000 ettari di terreni. Principalmente voi immaginate che a prendere questi terreni siano dei giovani agricoltori, magari anche in particolare donne. Sono terreni che sono abbandonati, no? Che erano nelle non hanno al momento un conduttore. No, sono terreni di Ismea che sono rientrati, diciamo, nella disponibilità di Ismea perché ci sono stati degli inadempimenti magari di precedenti assegnatari che non hanno onorato gli impegni che erano stati sottoscritti, ma Ismea non ha lasciato abbandonato queste terre. Ismea ha messo dei custodi per preservarne l'integrità. E quindi sono terreni in piena attività, sono già produttivi e si tratta di aziende che vanno da vigneti a oliveti, seminativi, ma anche aziende zootecniche. Quindi sono terreni produzione. Già, cioè sono proprio aziende agricole pronte. Ecco, esatto, non sono terreni abbandonati, sono terreni in attività questi che vengono messi all'asta. Principalmente al sud ho visto, ma ce n'è un po' per tutti i gusti, diciamo così, perché si va, come diceva lei, dai vigneti alle coltivazioni di grano, allevamenti, anche al nord e al centro. Perché immaginiamo principalmente per i giovani? Sono anche appezzamenti piuttosto grossi, no? 26 ettari è la media, quindi insomma non è facile per chi non ha esperienza entrare su un'azienda di questa dimensione. Sì, ma sono lotti di dimensioni diverse e comunque sono a prezzi più bassi rispetto ai prezzi di mercato e infatti nelle assegnazioni precedenti oltre il 75% sono stati assegnati a giovani che hanno meno di 41 anni e questo è finalizzato proprio a favorire l'ingresso dei giovani in agricoltura e anche a calmierare il mercato fondiario che in Italia è più alto rispetto a quello di altri paesi. Come mai è più alto in Italia? Beh, questo diciamo storicamente si è determinata questa condizione, poi bisogna tenere conto che l'Italia, anche se per molto tempo si è considerata l'agricoltura un settore del passato, è il settore che contribuisce fortemente al bilancio dei pagamenti, e noi siamo un paese che esporta molto produzione agroalimentare, siamo il paese della dieta mediterranea, quindi certo, con prodotti di eccellenza, e questo ovviamente ha portato anche a determinare un valore della proprietà fondiaria, certo, molto più a alto. Me questa sembra una buonissima notizia, come già lei stava ricordando, questa è la terza asta, se non sbaglio ce n'è già stata una da 8.000 ettari, una da 7.000 ettari, questa è la terza, la più grande, da 10.000 ettari, e soprattutto sono i giovani a voler intraprendere questo tipo di carriera. Che cosa ci dice questo sul paese, sul mondo, sulla situazione del lavoro anche? È una buona notizia che tanti giovani decidano di in qualche modo tornare alla terra, anche se noi di solito ci immaginavamo sempre che invece tutti i figli dei contadini volessero invece studiare e non rimanere a coltivare la terra. Beh, ci dice che il paese reale e i giovani talvolta sono più avanti rispetto alle classi dirigenti. Nei giovani la sensibilità ai temi ambientali si va sempre più coniugando con la valorizzazione della produzione agroalimentare. C'è un'attenzione non solo guardi, dei figli dei contadini, di chi viene da una tradizione di settore. Ci sono tanti ragazzi e ragazze che abbiamo incontrato anche proprio quando abbiamo presentato il bando per Banca delle Terre, persone che hanno livelli di formazione molto elevati, la stragrande maggioranza laureati o comunque con un titolo di studio di scuola media superiore, e che vengono da famiglie che magari non hanno avuto nessun rapporto con l'agricoltura. C'è questo interesse e noi adesso dobbiamo sostenere e coltivare questo loro interesse, non con assistenzialismo, ma con misure concrete. Quello della Banca delle Terre io lo considero davvero una pratica di eccellenza del nostro paese. Dunque, per i giovani noi ci sono, agevoliamo, prego, i giovani non solo mettendo queste terre a bando e terre diciamo di immediata possibile redditività, ma agevoliamo i giovani nel momento in cui, per chi ha meno di 40 anni, consentiamo con Ismea di poter rateizzare il costo dell'acquisto rate di 30 anni e con un mutuo a tasso agevolato. Senta, ma perché un'asta e non semplicemente una vendita? Un'asta perché diciamo è una modalità di vendita, ma un'asta per garantire trasparenza, per dare la possibilità a tutti di valutare come effettivamente non ci sono percorsi privilegiati, ma è una pratica che si può misurare attraverso appunto questa scelta che noi abbiamo fatto. Io la considero una scelta importante, perché anche su questo bisogna dare certezze. Poi è una modalità che non prevede costi aggiuntivi e garantisce trasparenza e semplificazione. Senta, questo è il terzo lotto che viene messo in vendita, no? Già sì. Due. Gli altri due sono stati venduti tutti? Com'è andata nelle occasioni precedenti, che erano più piccole come dimensioni? Guardi, ma simili come... Ecco, l'altro lotto che era di 7.000 ettari ha visto 5.000 ettari assegnati al primo tentativo, e come dicevo prima con il 75% di giovani che hanno meno di 40 anni e che si sono aggiudicati quei terreni. E devo dire che anche per questo bando siamo... molto ottimisti, perché nei primi due giorni ci sono stati oltre 400 accessi al sito della Banca della Terra. Quindi speriamo bene che anche questo venga tutto ovviamente assegnato, anche perché significa poi tutto sommato riqualificare anche il territorio, cioè avere dei presidi, no? Adesso lei dice sono sotto tutela questi terreni, ci sono persone che li accudiscono, ma un conto è accudire e un conto è proprio trasformarlo in un'attività, no? di famiglia, farci sopra un progetto di vita, pensare che in questo momento, dati del Sole 24 Ore, tra l'altro il fatturato dell'industria italiana è in calo tutte le parti, eccetto nella trasformazione alimentare, farmaceutica e tessile. Questi sono i tre settori che tirano ancora, quindi chiaramente l'agricoltura è quello che fornisce l'elemento al settore alimentare. Quindi è anche una tutela del territorio, no? Un presidio. Assolutamente, perché questo bisogna mettere molto in evidenza. L'agricoltura non produce solo buon cibo, e questo diciamo è un fattore importantissimo, ma l'agricoltura ricuce anche il territorio, l'agricoltura contribuisce a ridurre l'impatto climatico. Le norme di buona coltivazione sono uno strumento importante per affrontare e dare soluzione alla crisi climatica. E allora un conto è avere una gestione che sicuramente è stata garantita in questi mesi, in questi anni da Ismea, altro è avere un imprenditore o che vuole diciamo avviare la sua attività, o possono partecipare anche quelli che vogliono ampliare le imprese che già hanno, e quindi con la passione di chi vuole misurarsi e magari sperimentare, certo. Perché l'agricoltura, l'agroalimentare dà l'opportunità davvero di essere molto creativi e di intervenire su processi lavorativi, ma anche su la valorizzazione di tanta biodiversità di cui dispone il nostro paese, dai vigneti agli oliveti a tanti altri, ai semi e anche di recupero del passato. Cioè abbiamo la possibilità di mettere nella disponibilità degli imprenditori delle attività di grande qualità e nella disponibilità dei consumatori dei prodotti di eccellenza, che sono poi il passaggio per poter avere un reddito dignitoso per chi investe in questo settore e anche per chi sceglie di lavorare all'interno di questo settore, perché tutte queste operazioni poi devono avere, oltre a un grande interesse alla sostenibilità ambientale, una sostenibilità economica, e mettere, come dicevo prima, questi terreni nella condizione di poter essere acquisiti anche da ragazzi e ragazze che devono avviare il loro percorso lavorativo è dal mio punto di vista una scelta molto importante, ma è una scelta che noi vogliamo sostenere non solo con l'avvio di quest'asta, ma con il reimpiego nel settore di quello che sarà ricavato da quest'asta. Noi auspichiamo che, prevediamo che ci sarà un introito di non meno di 130 milioni di euro, e tutte sì. queste risorse saranno tutte reinvestite nel settore per sostenere giovani imprenditori nei loro progetti di riqualificazione, di rafforzamento, di diversificazione, nel ricambio generazionale in agricoltura, nel sostegno all'autoimprenditorialità, insomma risorse che saranno tutte in history reinvestite nel settore. Questo ha fatto bene a ricordarlo, perché abbiamo già degli ascoltatori che dicono vogliono fare solo cassa, invece in realtà questi soldi qua li si vuole semplicemente reinvestire nello stesso progetto. Neanche un euro andrà a cassa, saranno tutte reinvestite nel settore, così come è stato per le vendite dei terreni precedenti. Senta Ministra, infine le volevo porre una questione che viene da un messaggio, ma che comunque avevamo già in mente. Un ascoltatore scrive che lui è tornato per l'appunto in Calabria per riprendere, diciamo, per prendere in mano dei terreni, poi dice però terreni e fondi alla fine vengono sempre dati alle stesse persone che via via gattopardescamente riescono a prenderli, sottrarli a chi vorrebbe costruire qualcosa. È chiaro che l'asta è aperta a tutti, qui non si può dire a te sì, a te no, perché te sei già big e te invece devi iniziare. Però c'è una qualche forma, diciamo, di tutela per chi vuole entrare come novizio nel settore? E come le dicevo prima, proprio per questo c'è una piattaforma informatica, sì. E attraverso quella, diciamo, nessuno potrà avere cioè delle priorità. Non posso usare un frontman rispetto agli altri, assolutamente no, assolutamente no. E ogni asta è preceduta appunto da una fase di prenotazione, in modo da poter anche valutare l'interesse reale rispetto al progetto agricolo. Benissimo. Grazie. Ogni tanto è, sì, adesso c'è una, sì, manifestazione di interesse prima dell'asta. Viene valutato l'interesse e si fa l'assegnazione. E questo è un elemento di garanzia per chi vuole investire. Qui non ci sono i privilegiati. C'è da partecipare a un bando e sulla base della partecipazione saranno assegnate le terre. E l'impegno che io ho assunto nella presentazione del bando l'altro giorno è stato quello che ora si procede con i terreni dell'Ismea che sono immediatamente disponibili, ma ho chiesto ai comuni di fare la banca delle terre, di andare a rilevare i terreni incolti che stanno nei loro, nei loro territori, così come ci sono proprietà delle regioni e di tanti enti pubblici e non che hanno terreni che bene che vengono messi nella disponibilità, poi valutiamo insieme. Può essere la vendita come può essere l'assegnazione temporanea, ovviamente ragionando su tempi che devono poter permettere lo sviluppo di un progetto, ma ci sono tanti terreni che noi dobbiamo andare a recuperare e mettere nella disponibilità delle persone che vogliono effettivamente investire, perché insisto, c'è la necessità di produrre cibo di qualità, ma c'è la necessità di contribuire fortemente alla crisi climatica. Noi apriremo questo mese al Ministero la consulta climatica per riscrivere anche le priorità, il piano strategico dell'agricoltura del futuro, ma dicendo questo noi diciamo che se non si vanno a recuperare le terre incolte, se non si vanno a recuperare quei terreni che devono contribuire ad assorbire l'impatto climatico, noi chiacchieriamo soltanto di crisi climatica ma non l'affrontiamo concretamente. Non l'affrontiamo. Cioè, senta, le faccio una domanda veramente fuori tema e anche facoltativa, essendo lei forse l'esponente più rappresentativa di Italia Viva, che cosa ha in mente Renzi? È quello di lavorare appunto per dare soluzione ai problemi di questo paese. Come lei avrà colto dalle cose che abbiamo detto fino adesso, non abbiamo perso tempo nel chiacchiericcio salottiero. In questi mesi siamo stati al governo e siamo stati davvero responsabili, perché ogni nostra battaglia è stata sostenuta da proposte concrete. E adesso? Abbiamo detto no alle tasse, abbiamo detto sì agli investimenti, abbiamo detto l'emergenza di questo paese è il lavoro. Adesso, se ci saranno le condizioni per continuare, per lavorare tutti insieme con un cambio di passo, perché è necessario. Io credo che per primo il presidente Conte si renda conto che così noi non siamo utili al paese. C'è bisogno, abbiamo fatto una legge di bilancio dove abbiamo dato delle prime risposte. Questo paese, a parte il settore di cui stiamo parlando, che ha avuto un incremento del 2,9%, per il resto è un paese che sta tornando indietro nella produzione industriale e in settori importanti come il settore dell'auto, e vede tavoli di crisi aperte che non si chiudono mai. Non parliamo solo di Alitalia, ma parliamo di Air Italy, parliamo di Whirlpool, parliamo di Ilva, parliamo di tante persone che aspettano dal governo azioni concrete che incidono sul loro futuro. Noi vogliamo fare questo. Se ci sono quelli che sono alla ricerca dei responsabili, auguri. Noi siamo quelli che sono disponibili a contribuire, a fornire idee e lavoro. Ma siete responsabili anche voi comunque. Grazie, grazie a tutti. Grazie molto, ministra, buon lavoro, alla prossima occasione, buona giornata. Grazie. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, cantaba. Allora, con la ministra Bellanova abbiamo parlato di produzione agricola. Tutti, quando noi pensiamo all'agricoltura, pensiamo al cibo, pensiamo a mangiare, pensiamo a quello che poi viene sulle nostre tavole, ma non c'è non solo è quello così. Che arriva dai campi. L'ha detto anche la ministra, perché ha detto non si produce solo cibo. Infatti volevo dire, infatti noi parliamo adesso di altro, parliamo di scarti. Esattamente, lo facciamo con Daniela Ducato, che tra le tante cose è fondatrice di Edi Zero. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, lei, appunto, la sua fortuna, che è, tra l'altro, incoronata anche dalla famosa rivista americana Fortune, per l'appunto, ma insomma, come l'imprenditrice più influente e innovativa d'Italia. Esattamente, nel 2018, dicevo, lei ha fondato, diciamo, tu, sul lavoro di questi ultimi anni, proprio sugli scarti, no, che arrivano dall'agricoltura. Tra l'altro se ne parlerà a Fa la cosa giusta, qui in Fiera Milano, sabato 7 marzo, in un incontro che si intitola proprio Gli scarti sono oro. Che oro c'è negli scarti? Sono scarti preziosi, quindi già la parola scarto non andrebbe usata, perché evoca in noi qualcosa da buttare via. Comunque, se sono scarti preziosi, o come dite giustamente voi, scarti che diventano oro, ci piacciono. Giusto. Si tratta di quelle materie ultime che noi non consideriamo solitamente. Pensate a quanti rifiuti ci sono dentro un bicchiere di vino, perché è tutto quello che poi avanza, per esempio, dalla filiera del vino, ma pensiamo a quelli del tappi di sughero, pensiamo ai carciofi, agli agrumi, all'olio d'oliva. Sono tutti cibi, tra virgolette, o oggetti, materie, che vengono utilizzati, materie che noi associamo ovviamente all'agricoltura, alla bellezza dell'agricoltura, ma che inevitabilmente lasciano dietro di sé tantissimi rifiuti che poi diventano ovviamente un problema, anche se sono ovviamente di fonti rinnovabili. Ed ecco che invece, mettendo insieme intelligenze, mescole di intelligenze che vengono dal mondo dell'industria, quindi della biotecnologia, il mondo dell'impresa, il mondo ovviamente della scienza, si riescono invece a convertire queste materie ultime in materie prime per fare poi tantissimi prodotti, quelli appunto delle filiere, delle industrie verdi, che in qualche modo ho contribuito a far nascere, dove si producono oltre 100 prodotti realizzati sempre con industria a chilometro corto, e andiamo dagli adesivi, che semplici adesivi per le colle per piastrelle, fino agli isolanti, alle pitture, ai materiali per disinquinare il suolo, il mare, ed ancora biotessili utili per esempio per la moda, per l'arredo, per il packaging, dove si va a sostituire tutto quello che un mondo ancora ha fatto di materie petrolchimiche. Ma questa è teoria o pratica che si può fare? No, è pratica. Allora, intanto lo voglio subito dire, è pratica. I prodotti, uno, sono sul mercato, due, non sono roba da ricchi, perché altrimenti sarebbe... E anche quello è un problema, sì. ...evidente che le cose belle o le cose sane sono per i ricchi o per le case dei ricchi. L'innovazione vuol dire non solo produrre in modo sano prodotti sani, ma fare in modo che possano essere competitivi sul mercato e disponibili per tutti. Quindi per noi innovazione è questo, e anche appunto usare le materie ultime che diventano materie prime, perché se voi pensate ad un mondo fatto di prodotti rinnovabili, però di materie che dovremmo coltivare, non ci basterebbero quattro pianeti. Quindi è un obbligo, è una necessità, ma anche utile ovviamente non coltivare, ma usare quello che c'è già in abbondanza. È bellissimo ascoltarla, Daniela Ducato, veramente, lo devo dire. Ricordo anche che per il New York Times i prodotti delle filiere di Daniela Ducato sono tra le 10 innovazioni che possono salvare il pianeta. Questo la conferma che è pratica e non teoria, che non è chiacchiericcio, e che tutte le cose che ci sta raccontando sono poi state realizzate, esistono e sono acquistabili, e non sono solamente per i ricchi. Io volevo, non so se è possibile, siccome da quello che ho letto, lei sostanzialmente crea connessioni, mette insieme coloro che hanno questi scarti e coloro che invece avrebbero bisogno di un materiale più economico. Ci fa un esempio di una di queste connessioni, di come ha fatto a mettere insieme una realtà di scarto con una realtà di qualcuno che voleva fare i pannelli? No, in realtà io metto in connessione intelligenze, perché la materia prima più importante è l'intelligenza. Giusto. Quindi metto in connessione, in ascolto reciproco, per esempio le industrie, anche industrie che si vogliono per esempio riconvertire, aziende o aziende anche di distribuzione, quindi aziende leader anche nella commercializzazione, perché ricordiamo che i prodotti si devono fare e si devono vendere, e poi tutto il mondo dell'innovazione scientifica. Quindi vado a cercare tutti questi ingredienti e faccio in modo che che possano trovare ascolto. E poi un'altra cosa molto importante sono le normative, ovviamente. Allora ecco che lì c'è anche un lavoro di ascolto, interazione con le istituzioni, e devo dire che da questo punto di vista stanno arrivando anche dei risultati. Uno che mi piace raccontare, visto che sono in Sardegna, con tutto l'orgoglio di essere in questa regione, per esempio il nostro assessorato regionale ai lavori pubblici è il primo ad aver messo in campo dei cataloghi di orientamento al verde, quindi ad usare prodotti verdi per quanto riguarda per esempio i lavori pubblici, e quindi con un'attenzione anche alla salute collettiva. E quindi ecco che è importante poi che ci sia questa quadratura, come dico, dove tutti siamo connessi insieme: il mondo chiaramente dei decisori politici, il mondo dell'industria, il mondo della scienza e poi il territorio, ovviamente, con tutta l'intelligenza e l'ispirazione che ci viene per esempio dal mondo delle bambine e dei bambini. Quindi le scuole sono molto importanti, perché ci offrono quelle suggestioni, quelle ispirazioni e quel modo di guardare oltre che è necessario per fare innovazione. Certo, delle intuizioni o dei punti di vista nuovi, diciamo, che servono, esatto, poi a cambiare le cose. L'ultima, veramente l'ultima, se riesce in maniera compatta, ma c'è consapevolezza nel mondo dell'agricoltura di avere in mano questo scarto che è oro? Ma la consapevolezza, al di là della sua area, ovviamente, dove lei tessuto delle reti. Comunque. La consapevolezza è molto forte. Per fortuna siamo in un mondo di accelerazione di consapevolezza. Ora ci dobbiamo andare oltre e rendere pratica, concretezza, tutto quello che si fa. Quindi vanno bene i convegni, meravigliosi convegni, però adesso abbiamo più bisogno di tavoli di lavoro dove ci si siede intorno a un tavolo, decisori politici, industrie, aziende multisettore, e si portano avanti delle scelte che talvolta possono essere fatte a costo zero, talvolta possono essere fatte con una burocrazia buona, quindi che ci porta al risultato, però bisogna ascoltarsi. Ora in questo momento vedo come priorità l'ascolto, avere tavoli condivisi dove meno convegni forse e più tavoli dove si decide tutti insieme. Si può fare. Questo si può fare, ce lo prendiamo molto volentieri e la ringraziamo tantissimo. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. Daniela Ducato, grazie. Alla prossima, viabilità. Alla prossima. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Da un carnevale all'altro ti voglio portare, Carlo. Abbiamo sentito un po' come va Venezia, come è andata la settimana e cosa succederà dopo. Adesso andiamo a Viareggio. Marialina Marcucci, presidente di Fondazione Carnevale Viareggio, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, ho visto un lungo elenco di attività per questo sabato grasso, sono un po' indecisa perché c'è la roba per giocare, ma c'è anche degli appuntamenti seri, da Monicelli a Camilleri, l'eredità dei grandi padri della commedia all'italiana, cioè davvero avete coperto la gamma possibile. Ah, questo carnevale è dedicato alle generazioni e dentro c'è tutto, dall'arte alla letteratura, alla poesia e poi un grande carnevale. E poi c'è il Gran Ballo, che anche questo sì, ci piace l'idea. Tra l'altro c'è un tributo a Venezia, quindi abbiamo anche proprio creato, avete voi anche creato questa connessione con Venezia. Sì. I carnevali sono molto molto legati e da alcuni anni ci tiriamo la volata gli uni con gli altri, purtroppo anche in situazioni difficili come quella che è capitata a Sciacca. Esattamente, come quella che è capitata a Sciacca ieri, dove un bambino ha perso la vita durante la sfilata di carnevale. È un episodio che purtroppo non è il primo, diciamo, che capita in situazioni simili. Però sulle, diciamo, grandi emergenze, nello specifico del coronavirus, voi come state dando qualche avviso? Notate qualche richiesta particolare? Perché sennò siamo sganciati dal mondo, invece le cose accadono. No, non siamo sganciati dal mondo e fin dalle prime avvisaglie siamo stati in strettissimo collegamento con le autorità sanitarie. Avevamo gruppi dalla Cina previsti, anche se non siamo un carnevale molto frequentato ancora e scoperto dai cinesi, però abbiamo immediatamente stoppato, diciamo, qualsiasi possibilità. È un carnevale, sa, molto grande, quello di Viareggio, è su un circuito chiuso, quindi con un imponente sistema di sicurezza, insomma è un luogo dove ci si può divertire nonostante ciò che accade nel mondo. Certo. Bene, allora la settimana come le pare andata? Finora tutto bene? La settimana è andata fantasticamente, abbiamo fatto per la prima volta in 147 anni il giovedì grasso, che è stato strepitoso. Domani, oggi la cittadella è in festa, domani abbiamo il nostro corso del carnevale e poi martedì grasso il gran finale. Viareggio, Gran Pienone, si immagina un bellissimo sole. E aspettiamo voi e tutti coloro che ci magari ascoltano. Magari un po' di sole, diciamo, un po' di mare, cuore, non ci farebbe cuore, male. Ma poi io sono troppo milanese, abbiamo il carnevale ambrosiano che è in altre date. Siamo quindi amici anche di questo, siamo amici anche di questo. Ottimo, ottimo. Puoi festeggiare di qua e di là, certo, così almeno ti porti certo avanti, sei a posto. Certo, un grande abbraccio ragazzi. A voi, grazie, mille. Grazie. Buona giornata, buon proseguimento. Marialina Marcucci da Viareggio. E abbiamo gli ultimi minuti per la nostra invidiabile classifica delle buone notizie della settimana. Parto io al quinto posto questa settimana: sedie a rotelle e climatizzatori grazie alla raccolta dei tappi di plastica. Sì, funziona davvero, così titola la Green Me, che è uno dei siti che consultiamo spesso per questa trasmissione, perché ci spiega: vi sarà capitato di imbattervi in una delle raccolte di tappi di plastica a scuola? Ce l'abbiamo anche noi qua in radio, a dire il vero. Bene, sappiate che servono davvero. In particolare il gruppo anonimo volontari di Sospiro, provincia di Cremona, ne ha raccolti e venduti oltre 38.000 e con il ricavato ha acquistato 36 sedie a rotelle e 2 climatizzatori portatili, che ha donato alla Fondazione Sospiro di Cremona e ad altri enti del territorio. Al quarto posto, Romanina, la villa confiscata e Casa Monica diventa spazio polifunzionale, viene restituita alla collettività da uno dei luoghi simbolo della mala in città, spazio polifunzionale. Questa villa, che un tempo apparteneva a Casa Monica in via Rocca Bernarda 16 nel quartiere Romanina, è stata assegnata tramite bando della Regione Lazio all'Associazione Nazionale Soggetti Autistici, costituita da genitori, familiari e tutori di persone con spettro autistico. Il taglio del nastro nel primo pomeriggio di sabato, al quale ha partecipato anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Siamo molto contenti di questa restituzione. Al terzo posto andiamo a Torino. FCA investe sull'elettrico, assume 100 persone. Il piano di investimento di Fiat Chrysler Automobile per il polo produttivo di Torino si rafforza e si sviluppa. Nel comprensorio di Mirafiori il piano prevede l'installazione di Solar Power Production Units con pannelli fotovoltaici per una superficie di 150.000 metri quadrati, contribuendo alla riduzione delle emissioni per oltre 5.000 tonnellate di CO2, fornendo energia sostenibile per la carica dei modelli elettrificati prodotti nel sito. E a tutto questo, come dicevamo, poi si aggiungono Colonnine e l'assunzione di 100 persone. E al secondo posto, mobilità sostenibile in Italia. Implementare la mobilità sostenibile casa scuola, casa lavoro, nelle città o raggruppamenti di comuni al di sopra dei 100.000 abitanti. Questo è l'obiettivo del provvedimento, che prevede l'investimento di 164 milioni di euro in 81 comuni. A finanziare i progetti che sostengono le pratiche virtuose di mobilità per gli spostamenti ritenuti tra i principali responsabili dell'inquinamento, del congestionamento del traffico urbano, del degrado della qualità dell'aria, il Ministero dell'Ambiente e gli enti locali. Ovvero facendo che cosa? Promuovendo e finanziando pratiche come l'uso della bicicletta, il bike sharing, il carpooling, la mobilità elettrica collettiva, l'introduzione di mobility manager nelle amministrazioni pubbliche, insomma, dei bellissimi investimenti per poi stare meglio. E al primo posto l'abbattimento della vela verde, la demolizione a Scampia, addio al simbolo di Gomorra. Le vele sono sempre state il simbolo di Scampia, Scampia è sempre stato il simbolo della camorra, dello spaccio, di droga, del male. Beh, qualcosa forse cambierà, perché questa settimana una ruspa ha colpito la vela verde, uno dei palazzoni del quartiere di Gomorra, e dentro 40 giorni quei 50.000 metri cubi andranno giù, e in tanti da oggi sperano che ad andare giù sia anche quel male che di Scampia si è impossessato per troppi anni. E noi abbiamo scelto proprio questa notizia da mettere in cima alla classifica, perché ci è sembrato che finalmente l'abbattere un simbolo questa volta ci piace proprio. Molto. E abbiamo giusto quei secondi che servono per salutarci, Carlo. Certo. Cosa dici? Diamo appuntamento a domani ai nostri ascoltatori. E poi io, Laura Bettini, saluto te per essere stato qui con noi. Ah sì, cosa devo dire? Che del tema banca dei terreni agricoli si torna a parlare lunedì con Deborah Rosciani. Noi l'abbiamo anticipata questa Perfetto. Volta. Perfetto, così tutti i dubbi, anche le domande, quelli che ci dicono: ah, non avete fatto quelle domande, giustamente. E quindi anch'io saluto tutti, Carlo Gabardini e... Ringraziamo Paolo Corleoni, e in assistenza Edoardo Lavezzari, Danilo Di Trani, Andrea Piana. A domani.